questi perché sono un po' appassionato a questi apparati, capito? Questi apparati così con le modifiche, diverse modifiche ne ho, però me le hanno proprio tutti in camion io, tutti in camion, a volte la domenica l'attacco qua, quando so che non do fatica a nessuno, l'attacco un po', però ne ho, non nei canali normali, no, ma sul 45, sui canali alti, dai, le do però lì, con l'eco, no, non nei canali normali, non lo do però quasi mai, tranne il cambio. Allora è così, se no sono nei canali alti, capito? No, il frutto, se lo sto dicendo, il valore del frutto è se è nuovo, se in buone condizioni anche 120 euro. Sono venduti, si vendono, dai. Sì, sì, infatti dovrebbe essere quello il prezzo. Ma per modificarlo staccano il dissipatore da dietro, ci mettono un bello con lineare incorporato, niente di eccezionale. Una modifica pubblicata su vari siti, ma è tanto buono metterci un lineare a parte, capito? Si fa anche prima, cioè hai più regolazioni. Anche perché poi dissipa meglio la potenza, eccetera, eccetera. Poi c'è una modifica che io non ho fatto perché non ho avuto tempo sul modulatore, se attacca una resistenza dovrebbe andare, ma non ho avuto tempo di farlo, ho fatto solo quella dei canali per vedere un po' dove arrivarla. E arriva fino a 24 giù di lì, e in alto fino a 29, così senza aggiungere niente. E poi se vuoi altre cose magari ci puoi mettere dei quarti, allora diventa una cosa più seria. Sì, no, ma lo conosco bene il frutto. Il frutto c'è un bel modulatore, così come ce l'hai tu adesso, quello lì, i picchi si riesce a farli salire, ma quasi a 30 watt, i picchi, io ti faccio vedere quell'apparato lì, l'importante fianco a 4 watt, ma ce l'ho io, che ce l'ho, l'ho avuto, il frutto non ne ho neanche io, l'ultimo l'ho regalato a mio nipote. E l'avevo preso da una stazione fissa, mi ho preso parecchi di frutto io e l'ho regalato da poco, e te l'ho detto, l'ho avuto anche senza mettere quel lineare che dice tu dietro, solo a paracchino, bastano 4 watt e va intorno ai 20, i picchi arrivano intorno ai 22-23, poi se lo metti tutto al massimo, e al massimo come le facevano le modifiche noi, non va oltre i 9,5 watt, attenzione, da originale come ce l'hai tu, tutti i watt lo misuri, saranno 15 watt buoni, ma ti dà 15 watt e non va oltre di 15 watt, invece con le modifiche come lo fai, al massimo di portante bianca, senza fare quel linearetto interno nel recipatore, arrivi a 9,5 watt, non 10 watt, perché puoi andare anche oltre, però tu deve essere 9,5 watt. Questi 9,5 watt tu come moduli, i picchi arrivano a 30 watt, capito? Impattisce proprio, vedi, tu poi lo vedi quando ti stai ascoltando uno, vedi che il lago sale e ha dei picchi allucinanti, capito? Come moduli. E ci devi lavorare un po' sopra, sul modulatore, su tante cose, capito? E va bene, tutto è uno che è molto richiesto, perché su incontinente lo fanno molto per il camion. Ecco perché sto dicendo, perché va dei picchi. Invece quello che sto dicendo io, cosa arriva da 1 watt a 50 watt di portante bianca, e modulanti 70-75. Arriva a 50 watt di modulante di portante bianca, con la regolazione dei watt, perché di solito c'è qualcuno che ce l'ha, la regolazione dei watt c'è qualcuno, il primo modello, il primo tipo non ce l'ha, però si fa nello square, c'è qualche cosa del genere, glielo applicano la regolazione dei watt. Sì, no, non lo so se stiamo lasciando in bianco qualcuno, perché non sento più nessuno. Purtroppo con le modifiche si possono fare su moltissimi apparati, tutto si presta moltissimo perché si può anche lavorare molto bene dentro. L'unica cosa che nessuno dice è che però fare le modifiche è facile, a vedere la generazione delle spurie e armoniche è tutto un altro discorso, perché poi se ne vengono in casa tranquillamente, perché abbassando la portante da M e creando quei picchi lì di potenza così è praticamente inevitabile creare armoniche di primo, di secondo, di terzo ordine, e il cielo solo sa cosa succede, perché ti sentono, a me è capitato, perché io ho anche dei ricevitori digitali, ma quello che si vede è spaventoso, cioè vengono e ti mettono in ferro e ti portano via. Se sei fortunato cadi su frequenze libere, ma se no, guarda, certi disastri quando passano camion e gente con l'eco, che lo vedi sul ricevitore, c'è picchi dappertutto, armoniche, stra-armoniche, anche se sono distanti, quindi sono più generazioni indesiderate. E purtroppo nessuno ci pensa a questo. C'è rimasto qualcuno? Ok, sarebbe stiamo andando a fare la carica, Claudio lo stesso, Gianni mi pare che ha salutato lo stesso. No, non so, io ripeto, io ce li ho ma le adopero in camion quando sono in 131, viaggiando a Cagliari, chiuso a 131, perché anche no, senza attaccare nulla, lo metto qua, mangio qua dentro per tutto, il supermercato, in ogni porto entra, capito? Allora faccio almeno di usarne a casa e invito di usarli, capito? Proprio per quel motivo lì. Purtroppo è quello il problema, ma si usa sempre, perché c'è stato un periodo in cui sul cinto non sentivo neanche i camionisti, era proprio un periodo morto, solo adesso sta un pochettino, si sta risentendo qualcosa. È positivo, ma lo so, diciamo, i camionisti molto se stanno andando sui canali alti, capito, sul 45, solito stanno andando tutti sul 45, sono spostati sul 45, capito, anche quelli sono canali, sono proibiti, però, voglio dire, perché deve arrivare fino al 40, però, diciamo, io sono uno di quelli, siamo camionisti che abbiamo fatto questa scelta di spostarci sul 45 per lasciare i 40 canali liberi. È una scelta che abbiamo fatto noi camionisti, capito? Quasi sono pochi che vanno sul 40, anzi stanno iniziando perché il danno, diciamo, che l'ho fatto io, perché io sono da tanti anni e stavo sul 45 e non passavo mai sui canali normali, tranne che a salutare qualcuno così, e poi molti, sentendo me una cosa e l'altra, se ne sono passati su questi canali, sul canale 45, anche molti di stazione fissa, perché prima non ci andavano quelli di stazione fissa sul 45, andavano tutti su altri canali, che ci aveva radio professionale, via dicendo, ma non andavano mai sul 45, diciamo il famoso 45, che sarebbe dopo il 40, 41, 42, 43, 45, non 45 metri, il 45, capito? Sì, lo conosco, ma spazio ci fanno, perché non fanno altro che girare la manopola da via ad Enno e si trovano di lì senza girare tanti canali, ci vanno direttamente. No, ma invece non si è più sentito nessuno in barra nautica, c'avevano sempre l'uno, sentivano. Sono tutti passati al VH San Marino, dato che anche quello oramai, tra l'altro costava molto molto meno anche dei baracchini. Quindi stanno messo tutti quello oramai, non c'è più nessuno in CB di Baranati. Non ne senti più, ne sentivo uno a Sant'Antio, come che entrava così a parlare con noi, e ce l'aveva nel peschericcio, no, nella barca, non neanche, forse era peschericcio, comunque nella barca lavorava questo ragazzo, Maurizio Delta 1, Maurizio Delta 1 di Sant'Antioco, e lavorava nei pescherici, nelle barche, non lo so. E qualche volta entravano nella zona di lì che andavo, scendevo a Sant'Antioco, quelle zone lì, e lo sentivo dalla barca, che mi chiamava dalla barca. Addirittura da Sant'Antioco lo sentivo anche, forse perché era il mare, non lo so, lo sentivo a Macomè qualche volta, proprio la puntata di Macomè, a volte capitava di sentirlo lì addirittura. Lui non so se c'era dietro, non so se da San Pietro, come si chiama, in mare comunque era una barca. Perché zona alta lì era, ma com'è, prendo la vallata. Avanti, che è rientrato, chi era? Claudio, sono rientrato. E vabbè, Gianfranco, avevano proibito, poi proibito, oddio, avevano obbligato le barche e tutti i natanti a inserire VHF Marino. era sempre a pronto perché ce l'avevano nella banca i baracchini, perché parlavano con le famiglie, capito? Ognuno c'era una casa, l'antenna, tutti i ricordi, tutti, ce ne è rimasta ancora qualcuno, tutti i pescatori, avevano l'antenna a casa, parlavano con le mogli, con le, quando uscivano in banca, capito? E forse ce l'avevano anche per quello, capito Gianfra? Perché io mi fatto per ricordo, tutti ce l'avevano in casa, i pescatori, tutti ce avevano l'antenna in tetto e parlavano da quando erano a mare, parlavano con i familiari. Sì, infatti era così, poi parlavano tra di loro, perché all'epoca il VHF era costosissimo, era una cosa molto costosa anche. Adesso invece te lo tirano in testa, ne ho visto uno portatile lì a Porto Torres, se andare tanto lontano 68 euro, quindi costa meno anche di quelli che usiamo, dei normali baracchini praticamente. E poi comunque è anche autorizzato tra l'altro l'apparecchio, perché sotto i canali, sotto il canale 1 ci sono dei canali proprio per l'uso nautico, ma oramai no, non li utilizza più nessuno così com'è, solo qualche taxi utilizza le frequenze dei 43 MHz, solo i taxi ci hanno, tutti gli altri canali sono morti praticamente. E oramai è tutto in VHF, fanno prima, anche perché sono obbligati a chiamare quando escono, quando entrano, quindi è inutile avere tanti apparati se poi c'è quegli obblighi. Avanti qua. Beh, mi ricordo tutta la famiglia Tadò, Pio Paolino, tutti quelli, ce l'avevano tutti il baracchino a casa. Chiaro che chiamavano, ma erano tutti armatori allora, dopo non c'era la barca sua, quindi parlavano con casa, quando non usciva lui parlava con i figli, tutti quelli che ci sono adesso sono nati dopo, capito? Tutte le barche riviece a fare, c'erano tutti il baracchino, non lo ricordo lui, vabbè, ci divertivamo anche noi da Porto Torres, a parlare molto con i pescherici. Anzi, quando lo chiamo, io chiamo sul canale 8 e mi rispondono gli amici che ho. E basta. Non ce ne manda più nessuno lui. Tutti a mangiare sorti. È positivo. Però aspetta, che canale era? Se una decina d'anni fa ce n'era qualcuno, a volte mi capitava che io uscivo la mattina in camion. E aspetta, c'era un canale che non mi ricordo, aspetta, che non 12, non so se era il 12, forse era il 12, non mi ricordo, c'era un canale nuovo, perché la mattina quando uscivo io alle 4, 3 e mezza che uscivo in camion, a volte io parlavo con questi, una decina d'anni fa c'erano mi ancora, e sentivo che ci parlavo, qualcuno ne conoscevo pure parlando, ci parlavo la mattina, che loro stavano, erano al largo, e ci parlavo con qualcuno, non mi ricordo se era il 12, un canale erano, il 12 o il 18, adesso non mi ricordo. Il canale di pescherici era il canale 1, è come il canale 5 e il canale inizio, no? Che ci sono possessate il canale 5, quindi tutti ormai si parla sul canale 5, non è a decreto legge. Come il canale 1 i pescherici si erano possessati, infatti quando noi andavamo a parlare ti pigliavano sempre a parlarci. Ed era il canale 1, poi qualcuno si sfruttava sul canale 12, qualcuno sul canale 9, anche sul canale 10, i pescherici di Alghero stanno ancora attualmente sul canale 10, che è al baracchino. Vabbè, in quegli anni comunque era il canale 1. È positivo, no? Non erano nel 5, perché io andavo, mi trovavo su un altro canale, adesso non mi ricordo, forse uno, non mi ricordo, però mi ricordo sul 5 no, sul 5 assolutamente no, sul 5 no, neanche sul 16, che il 16 è nell'altra cosa del, come si chiama, no, vabbè, comunque, non erano sul 5, su un altro canale, e molti erano nel FM pure, mi là, molti, perché qualcuno mi aveva dato di questi peschericci, di quelle radio antiche e vecchie, ed erano nel FM. Poi Giancarlo me l'ha messa in AM, erano già, non uscivano dalla FM, mi rimanevano scritte in FM. No, quelle che hai tu, quelle sono marine proprio, quelle marina. Quando io ho iniziato a modulare con 23 canali, i pescherici avevano tutti i miei, la faietta KB23, il Vedi, Gianfra, non è che c'è qualche colpo tu, no? E quelli erano il peschericcio una volta. Servono i peschericci il colpo. Quello lo sto cercando, uno di quelli. L'ho avuto anch'io, ma tanti, tanti anni fa, quello nero, tutto. No, oramai no. C'è solo questo, l'ho preso su eBay. Giusto per giocarmi, perché ce l'ho avuto anch'io altre volte, quello con il frequenzimetro, con tutto, non quello completo. Quello che avevo prima, lo stesso l'avevo modificato e l'avevo scambiato con l'amico che diceva prima, Claudio, che adesso non c'è più, in cambio di un affare di filtri, non so che cosa. Ed era, anzi, non è un brutto, era credo il superstar addirittura, da quello tutto cromato, bellissimo, anche quello col frequenzimetro, però era identico al Galaxy praticamente. Sì, il superstar, che c'aveva il coso rosso, il display rosso c'aveva, no, si illuminava le frequenzimetro, come fare il superstar. Se non ricordo male, sì, c'era il rosso, ma anche questo c'era verde. Erano dei belli apparati, comunque anche questo è un bel apparato, ma poi ci si diverte perché lo puoi fare a pezzi e rimontare, capito? Quindi sono abbastanza facile metterci mano. Bei tempi, oramai invece tutti questi SMD non ci vedono più, buon per fare una soldatura, per carità, vero qua, che tempi. Ah, io mi baracchi la collezione, ce li ho già fatti, guarda, io ho detto poco fa, questo nuovo avete tre canali che mi ha regalato lì, Vulcano, il microfono è un vecchio Turner più tre super sidere che ci sto tranquillamente bene, ma faccio due chiacchiere, ho potenza da buttare perché va alla grande, c'è una ricezione favolosa, poi c'ho l'MC200, c'ho il Sears, SSB50, il Zodiac base, vabbè, la 48 lasciamo stare, quello è turbo, c'è un bel di baracchi, un bel, li uso quasi tutti, sono tutte vecchie glorie che ho avuto, li uso, sono tutti funzionanti, perché non lo so, il Galaxy Pluto io l'ho avuto, l'ho venduto a, non mi ricordo, comunque base io ne ho 4, però quello che ti dirò che uso quasi sempre qua è 27 e questo HB23, mi piace troppo, è selettivo, silenzioso, non prende colpi, e QRM0 sempre, bello, c'ha una bellissima ricezione veramente, adesso ho 23 canali degli anni 80, è un signor baracchino. E il Constat ce l'ha avuto? Il Constat 25B e 35B, uno ce l'ho, 25B, il 35B ce l'ha fatta. Adesso se tutto va bene questa voce lo facciamo per il semestre, vado a casa di una persona che mi ha detto che mi dà il Tenco 46T, sempre valvolare, che praticamente è quello superiore al Constat 35B, più o meno sono uguali, dai. Claudio, sai cosa ho dato io? Più di un annetto fa, Walter, cosa ho regalato? Mi ha dato uno della zona di Fidalba, quella zona lì. Toccai due canali, o tre canali, no, tre canali avevo, o due o tre canali solo. Toccai, piccolino in miniatura del grande, l'inciso fatto allo stesso modo, e mi pare avevo due o tre canali solo. Usciva una meraviglia, solo che in casa non se ne faceva nulla perché non arrivava neanche a 5. L'ho dato a Claudio e me ne ha dato un altro per questo camionista, un altro con 40 canali. Ho detto so io come risolvere il problema, gli ho fatto vedere a Claudio, ne aveva già un altro e non mi ricordo se aveva due canali o tre canali solo, se immagini. E a quarto, guardati come questo che mi vedi, tre guardato lo stesso. Cioè i quarti, se io trovo i quarti, li tolgo il canale 23 e li metto il canale 45. Se trovo il quarto del 45, me lo cambio e glielo metto. Capito? E così uso anche questo sul 45 perché è una scopettata. forse anche il primo 79, 78 se mi ricordo. E quindi me lo tengo molto molto stretto, ci parlo sempre, senti che radio che ha. Poi l'hai conosciuto l'altro, quello con cui hanno iniziato tutti, il Pony Sei Canali. Il Pony Sei Canali l'ho avuto anch'io, quando ascoltavo il microfono. L'avevo regalato al povero Carlo Titano. Infatti voglio sentire a Gianfranco vedere che fine ha fatto quel Pony Sei Canali, perché ci teneva molto, non me l'ha mai restituito. Non me l'ha mai dato, mai, mai, mai, mai. L'avevo regalato e... se se l'ha tenuto, se è rimasto lì, non lo so, bisogna chiedere a... Io ho ritirato anche tu come si chiama, cioè avevo il canale 5, il canale 10, il canale 12, 14, 21, 23 mi pare, tutti così sfasati, dove modulavamo un portatore, già. Prima della Mega Play, poi ho comprato la Standaster, poi ho comprato la Super Regibus, che era quella simile alla Manto, poi quella della Super Regibus, hanno iniziato le antenne Manto, poi quindi avevo comprato quella lì. Avanti Gigino Vulca. Questo qua è a quarti, capito? C'è tutti i quarti questo qua, c'è tutti i canali, capito? C'è tutti, c'è i quarti questo qua. Come devi procurarmi il quarto, ricezione, trasmissione, sono due accoppiati, 45, ci avesse scritto canale 45, senti capita, anche in capo al mondo, però dobbiamo trovare, ci rimettiamo in questi quartati così, poi vedrai quando attacchi il TNP3, quello lì mi dà la risposta, sono altro scemo, quindi questi quartati, soprattutto i microfoni Tanner, li portano per bene. Ma questa arrivazione a 200, mi dà 200 canali, questo normalmente, non l'ho fatto mai vedere a nessuno. Questo tu ti dà la manopola ed è arrivato fino a 200, ti dà 200 canali, se sono proprio scritti 200 canali e si ferma e non va oltre. Quando sei al 200 canale, che canale sei? Canale 200, e io devo guardare la tabella. Canale 200. Canale 200 si girava a frequentimetro, come a fare altri canali 200. Canale arrivano sino al canale 80 e poi inizia la frequenza, perché poi iniziano, non ce n'è di canale diluito, l'ho già spiegato. L'ultimo canale è il canale 80, che è 27805. Dopodiché iniziano i 10 metri e quindi devi andare a frequentimetro, non ce ne sono più canali. Forse c'è una stazione che chiamava. E a chi è che chiama? Ma ci stiamo scusando. Ci stiamo scusando, ma viene avanti. Non sento nessuno, ragazzi. C'ho un QRM7. Visto, scusa, Claudio, adesso stai facendo le manovre. Ah sì, quel volcante nel Marina del Sorso, è positivo. No, vieni avanti, qua abbiamo la nostra torre di controllo che lui è aggiornato su tutte quelle zone lì. Se cosa vuoi sapere, se ti possiamo aiutare. Lui, fammi la porta perché qua arriva in mezzo al QRM, io ho QRM7, sento che parla ma non capisco cosa sta dicendo. Aspetta, aspetta, allora tu ti trovi, ma che zona, non ho capito, tu ti trovi le luci gialle. Ma tu dove sei? Nella litoranea che scende da Castelsanto o sei sulla 131? Non ho capito. Dove sia? Ottava sì, allora. Ma questa isola, dove la vedi tu? Non la isola, la vedi sulla tua sinistra, andando verso Polo Torres. Ah, ma cosa c'è? Un bar? Ah, ho capito. E vedi, il coso che è spento questo negozio adesso, c'è un bar che c'è scritto Arco Parchi, sicuramente. C'è la parafarmacia. E poi cosa vuoi sapere? Stai andando giusto, devi tirare dritto e ti porta a Sassari. fra 8 km sei arrivato a Sassari. Positivo, non ci stanno problemi. Tu mi hai detto che sei già arrivato a Sassari. Positivo, perché io sono Gigi Vulcano, a me la voce mi sembra quella di Antonio Grotte, comunque sono Gigi Vulcano io. Non è male che io ti ho capito che eri tu, hai capito Antu, io già l'ho capito che eri tu, capito? Qualcun altro l'ha capito, ma io già l'ho capito che eri tu. Capito Claudio? Hai capito? Non mai te lo vuole fregare Antonio Grotte, non mai te lo vuole fregare. È positivo, quando hai detto le luci gialle nel coso ho capito che eri lì sotto. E Anto deve mangiare ancora pasta asciutta. Io non ne ho mangiato pasta, mi sono, guarda, voglio fare la dieta. Oggi, stanotte non ho mangiato, però mi ho mangiato due belle bistecche che ho fatte nella piastra con un fondo della zucca. E cosa ho mangiato dopo? Il melone non l'ho mangiato, era l'intenzione di mangiare il melone e non l'ho tagliato, non l'ho mangiato, però mi ho mangiato due porzioni di gelato dopo, proprio per cosa, ho evitato la frutta comunque, dai. Sembra una modulazione. Sì, ma è confondita la tua, io non ho capito che è tu. L'avevo capito al volo. Positivo, positivo. Ma anche zona 6? Sono quasi arrivato al tubo d'acqua. Ah, ho capito, la voce marinina. Antonio Grotte, hai capito Gigi Nurca? Ti voleva fregare? Positivo, no, ma l'ho capito da prima, quando si è preso le cose, ma poi ho lasciato. Ero nel dubbio nel primo coso, adesso mi sembra più Antonio Grotte questo. Ma ha detto che ha chiesto nel primo coso, scusate, pensavo che era lui, pensavo già che era lui, invece lui ha detto non sono Volcampe, però pensavo che era già lui alla voce, capito? Poi ha detto Volcampe, ha detto ma Polazzi si assomiglia alla voce sua, poi ha detto luce gialle, quello e quell'altro, capito? E allora ha detto, poi si è sentito, si è capito chiaro chiaro che era lui. Ok, vabbè, io riprendo e vi saluto già tardi, guardami un po' il TV, come i vecchietti, oi, già ci siamo messi bene, va bene, riprendete, ragazzi, saluti a tutti, ciao Gigi, ciao Antonio Crozet, buon proseguimento, riprendete la classe. Ciao, ciao, fra, ciao, io, vecchietti, anch'io tra un po' spiego tutto, e lo hai, ho ancora tutta la settimana da combattere, per carità, poi vediamo cosa ne salta fuori, cosa ne salta fuori a fine settimana. Avanti lui, ciao Gianfra, buonanotte, alla prossima, avanti lui. Positivo, ciao Gianfra, fate la buonanotte. Se vai a letto subito, io non ne ho voglia di andare a letto ancora, mannaggia la notte sono andato tardi a letto, chissà perché. Ieri notte invece sono andato prima, Claudio. Sono andato, sono verificato presto ieri notte, però mi sono andato presto, però adesso non ne ho sonno, non chissà come mai. No, ma adesso stai entrando una bella dieta, un po' di freschetto. È piacevole tra gli altri. Invece, quando c'è caldo io mi trattengo un po' di più alla radio. Cerco di stancarmi il più possibile, poi quando tocco il letto sei già crollato, capito lui. E quindi niente, meglio poche ore si dorme, l'estate è così. Avanti a tu. Ma stavo pensando, a casa tua? sua risparmiate con il riscaldamento, ma perché con tutte quelle radio che hai accese ogni giorno, secondo me le ventole passano e ammazzano per riscaldare la stanza. No, io tengo sempre un filtro aperto, non ce ne dedica. Se chiuso tutto lo lasci muovere al caldo, tra le ventole in funzione, bolle varie. È un casino, ma così già si sta bene. Ma ascolta, quindi mi rassicuri nel senso che ho fatto un bel acquisto. Sì, è una grande, ho guardato su quella vetretta, è già conosciutissimo, sto guardando anche il log dei collegamenti e ci siamo già sentiti un sacco di volte in 40 metri. Ciao Roger, non sono ancora riuscito a dirti qual è dei... no, le magie, perché è un rosso buono, l'ho visto, soltanto che come vi ho detto, come gli ho dato la parola che gliela avrei acquistato, lui l'ha tolto, quindi non ce l'ho più presente. Sarà un Revex, qualcosa del genere. Di solito quegli strumenti sono Revex, Diamond, MFJ, insomma, roba professionale. E se vuole 200, quello è la King. Bisogna vedere quali sono, qual è, che colore è, come è fatto. Anche se non c'è scritto niente, già la tiro fuori io la sigla, non c'è un problema. Per esperienza acquisita, no? Già li conosco gli strumenti, quelli professionali. Però il 502 lo fa anche la ZG come strumento VHF, perché il 501 è HF, il 502 è VHF. Vabbè, poi lo vediamo, ci sono problemi, avanti lui. E ma cosa c'ha? Cosa ha preso? Non ho capito. Gli ha guardato assieme a una radio, un rometro, però non si legge la scritta, la marca, c'è scritto 502, quindi bisogna vedere che marca è. Vabbè, ma comunque, in ogni caso è sempre uno strumento, quindi ha sempre il suo valore. Che non è un graffio e allo stesso tempo, se non sbaglio, la marca iniziava con la I ed è un 502S mi sembra. Con la I in lunga o in normale? Sai che qua è di fria mio qua, dai. Cos'è? Trovo di fria mio a vedere cosa c'è di 500. Com'è nero? Che colore è? Nero è? È nero, c'ha una manopolina al lato e una sola smitter sia per il wattmetro che per il ROS. Capito, ma non è della Fayette, io laggiù mi pare stato i miei dubbi, io mi vado un volta della Fayette. Ma io mi ricordo tipo Irina, Irine, Iribovo, non ricordo. Vabbè, di marche ce ne sono. No, ma quello è uno strumento VHF per la banda 2 metri o lui, non è per la 27, capito? Quindi bisogna vedere che marche, non so. In lunga, vabbè, ma ce l'hai prima quello della MFG. Io ho quello della MFG, quello della Magnum, un M2000, che fa anche da commutatore d'antenna, grandissimo quanto una radio, ed era di carotità. Poi c'ho l'SVR200, quello della Kingold, e poi c'ho l'altro della Kingold lo stesso. Ne ho uno MFG, uno della Magnum e due che della Kingold. Però spero lì bisogna vedere che marca è, perché questi due sono neri e due sono grigi. Bisogna vedere com'è quello lì. Aspetta un attimino, prova a fare una cosa, ce l'hai il computer davanti? Sì, ma è spento che mi stanno scaldando i piedi. No, allora basta niente. Perché lo trovi su eBay, però non è eBay su offerte, è eBay quello l'altro, no? Cioè non il classico, ma quello a vendita diretta. In breve è di Caserta questa persona, e l'ha messo in vendita ieri, tanto è vero che già lo sai che io sto girando la testa per trovarla con la radio, non l'ho trovata perché l'ha messa in vendita ieri. Pizzicato subito. No, quello è fatto la cosa. Io ce l'ho uguale e non ce n'è per nessuno. È stato fatto sentire, ho staccato il microfono normale suo con la tastiera di TMF e gli ho collegato l'SM20 che c'è lo stesso attacco di quelli che contatti. Hai visto che radio che ha? È una cannonata, va molto bene quella radio. A Parugia, no, ma poi mi sembra uno di quelli, c'è la foto che li tratta davvero bene. Te ne accorgi subito quando arriva. Te ne accorgi subito quando arriva, se la radio è a posto, te ne accorgi. Io quando ordino qualcosa ordino sempre da persone che più o meno hanno la mia stessa buona volontà di stare assieme alla radio, perché secondo quello che fai, lui poi ti dico una cosa dell'anno 48, non mi picchiare però. Cos'è la ragazza che hai fatto? Nulla, cosa vira che non mi... c'era la radio sopra, non mi sono accorto. Non ricordo neanche chi mi era attaccato qualcosa. Ma sai cosa c'era? Tu cosa hai sempre detto? Di non attaccare mai niente? No, non attaccare mai niente che cosa? Ecco perché nell'era 48 quelli modificati, tu hai sempre detto non attaccate niente. Giusto. C'era un adesivo. C'era un adesivo che non so, io c'avevo la radio sopra, non mi sono anche accorto. Evidentemente comprimeva, faceva qualche disturbo con la colla, non lo so. Ero stasera controllavo, avevo aperto, tutto collegato, spinotto a posto, tutto a posto, dentro è bellissimo, una cosa allucinante. L'ho richiuso, stesso difetto, ha detto buh. Ci ho incantato un adesivo, ci avevo fatto un buh, mi ero tolto, ho tutto pulito con l'altro, e luce, nuovo, non lo fa più. Ti ho detto anche un'altra cosa, l'ho detto l'altro giorno, attenzione, non verniciate mai i coperchi all'interno, non sfruttate mai vernice, fa cosa di innesca di cose, non funziona, guarda, è successo a me, e me l'hanno detto su chi fa modifiche, potete, occhio, non sa perché questo tipo, la vernice che mettono loro è diversa, se poi lo vedi dentro, a volte c'è una cosa, specie di cosa, sembra una pirruggine diversa. Non sfruttare mai vernice all'interno del coperchio, verniciarlo all'interno, all'esterno sì, ma mai all'interno, perché ti fa tante di quelle radiofrequenze. Io le appoggiavo il coperchio, mi innescava Claudio, suonava e mi faceva un fischio, una tromba, le ugamavo e no. Ha detto che era l'autoparlante, allora le chiamavo l'autoparlante, era la stessa cosa, poi un tappo, nulla, fischiava, toglievo il tappo e non lo faceva, gli appoggiavo il tappo senza neanche abbollonarlo e lo faceva, ed era la vernice che avevo verniciato il coperchio. Roba la mattina, uno dei cifra Antonio, mi stava facendo impazzire, stava impazzendo, non ho mai avuto niente a tavoli, ma poi non ricordo perché è stato messo questo adesivo, un adesivo di un raduno sopra, poi stasera mi sono, perché ogni tanto mi interrompeva la ricezione, evidentemente disturbava la commutazione del relì, lui per parla ascolta, non so, ne l'ho tolto lui, l'ho tutto pulito bene con l'altro per togliere quella impurità che c'era dell'adesivo, è nuovissima la radio, nuova, nuova. Vernice originale proprio, ma a posto, cioè, è anche più bella lui senza niente, ma da provare non l'ha più fatto, aveva colpi, niente, non l'ha più fatto, questa cavolcosa, niente, non l'ha più fatto, un adesivo di merda. Cos'era, ha detto 500, cos'era, ha detto chi so, cos'era quello che c'aveva lui, quello del rosmetro? 502. Gianni, registrato Gianni di Chiaramonti. Allora qua ce n'è uno della ZG di 502, però è lungo questo, con tre pomelli. Antonio Grotta ci sei, c'ha tre pomelli, è lungo con tre pomelli, e c'è scritto 502 ZG ed è nero, non è grigio, non è il colore della ZG, ma è nero. No, negativo, negativo ZG, negativo. Iniziamo con la L e c'era una R in mezzo come marca. Ma io ti poi non so se ti sente Claudio. Claudio, lo senti tu? Ma chi sta modulando? Vedi a vedere il segnale se è più basso. Sì, che lo sento, scusa. E come prima ti sento? Stesso segnale di prima. Santiago 7. Attenzione Gianni di Chiaramonti, ascolti. Ascolta, fatemi da parte. Mi sta modulando? Sì. Che fammi da ponte con lui appena... Oh, Gianni, aspetti, faccio da ponte che ti vuole dire una cosa grande. Allora digli che ho scaricato adesso, a parte gli scherzi, una cosa su internet, un progetto per fare, per convogliare le onde elettromagnetiche che si dissipano nel cavo dell'antenna, che forse è il suo problema. Se lui prende un manico di scopa, non ridere, diglielo, di 30 centimetri però deve essere. Gianni, ha detto che ha trovato un altro progetto, Grote. Devi prendere un manico di scoppa da 30 centimetri, deve essere 30 centimetri però, Serve però per non far sì che le onde elettromagnetiche si dissipino nell'etere, diglielo. E serve per le onde elettromagnetiche, non si scippano nelle... No, deve avvolgere tutta Castelsagnola, devi imbrigare tutta Castelsagnola. Che deve fare almeno 20 spire su questa specie di manico di scoppa. Dopodiché... Ma niente, mi dici però che il manico di scoppa lo deve tutto quanto avvolgere a Castelsagnola, se no non fa massa bene, capito? Ascolta, quindi dopo che ha fatto massa però dovrebbe ungere leggermente con la vasellina, ma come protettivo. Vasellina ci deve mettere però. Domenico invece, colazione, poi tengo la voce di Domenico, grazie. E se da Domenico sotto Tarzanetto? No, non so se è lui. Io l'altro giorno ho pizzicato dalla salita dei monti con l'ana 48 e l'ho portato sino a Sassi alle 11:30 di notte. E poi dietro a lui c'era Palmirio. E tutti e due dicevamo, ma se sei arrivato una bomba in quella zona. Poi si vede, è nata la bambina a Palmirio, è nata la bambina. Abbiamo mandato un messaggio. È nata venerdì, mi pare. Nel discorso è nata. Infatti stavo cercando stasera per fare gli auguri. E per dirgli se mi avevo preparato quella documentazione per fare quell'allaccio, e invece non l'ho trovato né nel 45 né sul 5. Mi ha risposto Gianluca con Stefano, che erano su a Ploie, stavano scendendo la Saccaggia, il figlio di Giovanni Camposanto. Ho fatto due chiacchiere con loro e poi sono andato sul 45, ma no, non l'ho trovato. Allora Gianni, ci sei? positivo. No, io ho provato già con il manico della scopa, ve lo sto dicendo, io l'ho già fatto, l'ho già fatto, in realtà ci arrivavo Santiago Nove, l'ho già provato io, ho messo il manico della scopa, io ho già fatto quella prova, veramente ho scherzato, ed sta dicendo giusto Antonio Grotta. Io Nove, guarda, un segnale di Nove tranquillo, 9-9-10 a Sassari, col manico di scopa. Che c'è il manico del picco? Sei a pomponi. Ho provato con una scopa a 30 cm, si è messo al QSO, guarda cosa è riuscito, vai Pompo. Vai. No, io non mi faccio mettere il culo da solo, se prendi come vedere in quello gli altri, ma proprio prima di entrare devono prendere la vasellina. Poi la vasellina in farmacia, così non la provi, te la pulisco io, prima provo io e poi la provi tu, e così siamo tutti in pace, caro. Non ti preoccupare, tu puoi stazionare, c'è il mono, basta lubrificare la canna che te esca. Appunto. Lasciato a Gianni anche la moto in bianco, vai già! Non è bianco, sta andando a prendere il bastone. Comunque arriva meglio di prima. Sì. E ti arriva qua, Sì, arriva più forte di Antonio Grotte. Antonio Grotte, dati da fare, perché qua a ottava Gianni mi arriva più forte di te. Se deve fare qualcosa, lui da Chiaramonti mi sta arrivando più forte di te, Antonio, No, Gianni sta arrivando fortissimo adesso, Vai, 7, fratella mia. Non so se lui mi ascolta, ma penso di no comunque. Se no, l'aveva già bestemmiato a quest'ora. Allora già mi senti, io pensavo di sentire la verità. Meglio così, già. Se ne vado bene, auguri per deviare, spero si bruci subito. Già almeno ti senti avuto pagazione poi. Oh Gianni, tu a me mi ascolti a me Gianni. È positivo, io sto facendo con 4 watt, non con 4 watt e mezzo, M5, 4 watt tondi tondi di paracchino. Da 4 watt in tutto, io sto uscendo con 4 watt e solo 4 watt. Ma non ci provare, che già poco fa ti sentivo, ti ascoltavo, ma una cosa invisibile. No, io ti ascolto. Io ho un giorno modulato con la... E io. Con la fase magnetica messa dentro qua in cameretta sopra il letto e lui mi ascoltava e io ascoltavo a lui. No, io lo ascolto, se stacca la linea lo ascolto, segnale 2, radio sempre 5. siamo tutto, ci si riascolta. Sistemata, pulita, ma sa da esco. salito sul tetto e abbiamo preparato il cavo di discesa della direttiva nuovo e il cavo di alimentazione. Adesso in settimana dice che viene questo mio amico con la scala, apro il proviale e tiro fuori e iniziamo a fare girare anche la nuova elementi. Vediamo un po' come si comporta, poi altro lavoro non è facile, tanto non mi frega niente, non è che né gana né tempo né nulla, sta venendo un bel, secondo me gira maestrale di nuovo stasera, c'ho già la volgibile che batte, ma sono bella dieta, il 3D, speriamo che facciamo il nuovo braccio, e non la farò tanto, tanto ne lascio quelle, va bene così, ne ho 6 già di antenne sul tetto, le radio sono tutte sistemate, anche i baracchini, tutto, basta, non metto più niente, mi devo ritirare un altro paio di radio, completo con la base della scrivania, appena Giulio sta bene, siamo sentiti al telefono, boh, ed inverno ci passiamo, l'inverno, chiusi qua dentro, il calduccio, tutto atteso, e vediamo un po' se c'è la voglia di parlare, di fare, se non ci sono rotture di palle come sempre. Si continua così, ma se no pazienza, vai Orchetto. E così. Ah, va bene. Uia. E tu e Gigino Volcano? Domani dove sei? Ma sei andato poi da Tesoro, anche oggi sei andato. Cosa l'hai portato? Ti notò il reggimento. È positivo, cemento, Claudio. Cemento, sì, sono andato, l'ho sganciato pure dentro, sono andato prima di luna, e l'ho sganciato, ma ci siamo sentiti, ma stiamo andando lì, ho sbagliato questo. O dopo ci siamo sentiti, non me lo ricordo più, ma se quando stavo andando o no, o quando ho finito forse. No, stavi andando, avevamo il telefono, infatti mai ti sentiamo dopo e devo fare manovra, ero a Martis io quando ti ho chiamato. Sì, sono andato e ho lanciato dentro perché c'è un altro articolato e poi sono andato a casa a pranzo, poi sono tornato e dico che hanno bevuto anche una birra con un pugno dopo lì sotto il bar, sotto casa sua al bar. Sono fermato perché volevo dare una basetta lì, si dice una basetta della 2001, e me lo sono messo andato a casa, una sorpresa, me lo sono messo in cambio e tanto sono uscito da lì da. Mi sono passato sotto casa sua, là, uscendo, mi sono passato a Piazza dei Segni e niente, capito? Poi sono andato e mi sono buttato in mezzo alle bancarelle che hanno voluto lavorare a di oggi, ho fatto chiudendo con te che stavo girando quella curva secca in mezzo al ceppo due bancarelle che oggi la lunedì, cavolo. Infatti io stamattina mi sono dimenticato di tutto, perché c'ero Gabriele a fianco Luigi, a te ancora sei lì che ci sono mancate, invece mi sono dimenticato di tiro, che c'è il mercatino, quindi no, di non fidarsi a salire tardi Piazza dei Segni perché poi non può girare. Mezzogiorno e 20 era, mezzogiorno e un quarto. Mezzogiorno e un quarto era, cavolo, quando sono salito e sono arrivato in punta, per mancare lì, invece si sono passato bene, dai. Ehi, vabbè, dove passi tu sì, lì sì. L'altra parte è un po' più incasinata, ma lì già è largo e già si passa bene, poi una volta che scendi giù dall'altra parte, perché Oriani è tutto tranquillo, non ce n'è problema. Avanti Antonio. Sì, altro che è così, c'è venuto un paio di anche una birra presa, un paio di birre, siamo stati tranquilli. Mi hanno attaccato un 4 da 20 minuti quello che era di buono. Dopo appunto è venuto Giuseppe, mi ho messo con l'antenna e poi gli ha messo tutto quello che stavo provando. Perfetta la l'antenna. Lungo non si muove per niente, molto notte stazionale. Invece anche molto forte come antenna, la verità. L'unico problema è che ci vuole una strappa lenta, perché pesa l'antenna, la verità pesa. Ma qual è quella di Giuseppe? fare qualcosa, l'antenna la collacciavo io, ti ricordi con la gran presa, ho dato lo filo con la carica io. E poi lui ci ha dato la basetta e basta. Io ti ho fatto con la Giuseppe, sì. Perfetta, non c'è nessun problema. Ma fatto con io ce l'ho chiesto stasera con Tabula 9 quando sono salito sulla Belghiera. Perfetta era, non si muove bannuta. Io ci ho sentito anche il tracchio controllo. Già va bene, funziona tutto bene, non c'è un problema. Intanto riprendi, ce la può fare una razziata, anzi mi bevo un bel tè freddo, riprendi o quanto? Ehi, già l'ho visto io del passaggio a Giuseppe con la 2001, sanno? Sì, la ehi, già l'ho visto quando è passato. Già l'ho visto, già l'ho. Uia, sa che saremo le battenti domani nella Svisa Kids. Mi pare saremo tutti le battenti. Esagerato, va. Cosa? Avete esagerato, anche voi ce ne sono nella in campagna, la verità. Ma il professor di pare noioso. Perché se passi, se tanto non ti lo dentro al fiume, si fa un po' di pioggia. C'è un buco, sarà largo quasi mezzo metro. E dove? Ma il ponte, quello che voi sono marciti e sono spariti l'ultima pioggia. Adesso, ecco. Si è fatto la scendo giù, sai cosa faccio? Mi piazzo la gran pena che c'ho qui, scendo il cabine 9 con la limitatore 5A e così mi faccio una bella murata. C'ho un cavo qua, sopra il petto, tutto aggiunto, è quello che non uso lì. Almeno se non lo frega non si abbia in culo, non mi interessa niente, invece adesso il cavo che c'ho qui nuovo. Meno male che sono fortunato qua. Si è salvato, ho preso solo 4 minuti di caldo, ho messo tutto nuovo, c'è un nuovo giudice, tutti i dici, guarda che è raro trovarlo, La musica è sotto di me, ma cosa vedi, Va bene signori, dai, io vi saluto, passate un buon 144 quando lo fate, io faccio il QRT e domani mi devo alzare presto. Ciao Claudio, ciao Pupù, ciao Grotta, ciao Gigino, tutte le migliori e le brusche, banchetto QRT da parte mia, ciao buonanotte. Ciao, buonasera. Ho verificato come un fiato. Dicendo un punto da cui c'è adesso, ti giuro, mi sarebbe sceso anche già che ti faccio di pensare a quello che dico io, per quello che c'è adesso. Io non uscivo con 100 watt, era il 201, ma se avevo avuto quello che c'è adesso, no, cioè quello che c'avevo prima, no, non lo c'è adesso. Ma altro, va, è tutto tanto a posto, ma io più di una mi sono salta. Adesso sono venuto veramente morbido, poi... In seguito chissà che mi venga in mente di attaccare qualcosa di grosso, non lo so, adesso vediamo. Non lo so, penso niente. Però se dovesse succedere qualche guerra, cose del genere, non mi colpa niente. Comprarmi quello che avevo prima io, sistemarlo bene e riutilizzarlo. Almeno cosa che ci trovate già. E prima sì che era il mio Berlino. La zona di qua, con la zona di giù, ti ricordi qua? Eh beh, certo che mi ricordo. E cos'hai toccato, Savi? L'hai abbassato solo l'eco all'interno? Allora, non è stato un po'... Devo diminuire così, capito, come si chiama? I giri. Invece di continuare all'infinito, e si blocca subito. Se tu ti affinco quella che c'hai e mi hai 300 di basso sotto il culo tanto si indaga tu ormai puoi fare quello che vuoi. Ma se tu porti 100 euro appresso e ce l'hai subito un nuovo fiammante. Che cosa? Il B550. B550 quanti va a treno? 300. Che lavoro, ma avete tanto reso io 30 per questo che ce lo faccio andare. Alluvia. Speriamo che continuo un attimo a spegnere tutto che ci sia tutto acceso e tutto via. Speriamo. Amelio. Pronto. È brutta quella radio, ti stiamo ascoltando. L'hai rovinata. Dai, ma io con quella vestita c'ho gente, non mi piace. Che cosa? Bullotta. Adesso quasi ci si dai. Per far uscire la popolazione bella. Quindi tutte e due fanno parte.

stasera eri in barca. In barca? Sì, in barca a vela. Non capo, quello volevo sapere io. Sì, ero in barca, ero in barca. Io non volevo dire niente a nessuno, però è arrivata anche la barca, tanto cosa fare. A proposito, vedo un po' se c'è qualche amico giù a bordo, perché non c'è posto per metterla. Mi toccherà metterla a porto di sentire. Seriamente? Ma che cos'è? Che cos'è un meteo? Oh, una scalabagna tagliata in due. Scalabagna, buonasera, allora. Io ho il comprendato di Cimitra, ma di chi, eh? Cosa vai? Mi ha detto, scusami, tu sono in barca. In barca ero, la matta di nevare in barca ero, stavo facendo i mandati degli stipendi. Non so, mi occupo anche di quello io. La lì in baglio, ma che di te c'è tutto un altro conto mio. Perché l'ufficio va in ferie il 13, allora ho fatto il bonifici oggi, capito, mi hai. L'hai una biglia perché senti varia che sembrava in barca, infatti ho detto boh, in barca, evidentemente sta pescando, boh. Oh, è di accendere l'aria condizionata nell'ufficio del direttore, ogni volta che vado devo andare da lui per farmi mettere i visti, se i bonifici sono, me li fa passare. Ma di Roger, e io qui pensavo già di portare a pomponi a pescare. Pescare, sì, è sempre così, ma la pescare con, non ci vado con nessuno, e basta che una volta sono andato con Tore San Giovanni in barca e l'unico asciutto ero io intorno a 4CB, non ci vado più in barca con nessuno, torno a pescare la canna valesca. E a popolo bisogna portarlo a 10 miglia alla terra e metterlo sopra un materassino, vero Claudio? No, non mi lasciate in spiaggia, due cazzo di birra, le bistecche, quello che è, il pane, senti mi sembra, tu vuoi andare a pescare, arrangiatevi. No, non bisogna erano noi, se no buca buca, no, Tony. Quello sì, sono bistecche. Sto dicendo io, se volete andare a pescare, voi lasciate da una parte, lasciate le bistecche che le cucino io in spiaggia, voi andate a pescare, così fate con una torre di mattina, già c'era la guardia costiera, però io non ci vado più a verità a pescare così, non saranno, la forza è pensato. Sì, sì, come l'ultima rostita che avevamo fatto, le bistecche erano diventate i giorni di volti. 94 di cuscetti. Ah, ha bruciato tutto, cosa? Tra le due Natalino abbiamo bruciato tutto, eh. Sì, si mettono gli anni bianchi, la rovina di Macquaretti. Lui, Natale non beve, lui sì che era sempre cotto, lo mazzo di nevarie. Diventa molesto. Molesto diventa, io non vedevo neanche il fuoco, il problema era quello. Era molto buono, raccontati a Antonio Grode, quando ti si è bruciata tutta la carne abbiamo dovuto mangiare ali di gabbiano, perché anche quelle di pollo si erano bruciate. E mi è andato a birra, però, ali di gabbiano, e pigli di anguilla. Beh, tu non ci credi, Sarri, un giorno abbiamo preso, anche a Tessarlo, abbiamo preso, ma dato un ragazzo perché... Avevamo tutti rientro, dice che ma a mangiare non andiamo, no, a mangiare ci andiamo, se lo facciamo tardi, mangiamo qua, all'impianto. Ho detto, lui ha dato 50 euro, ho detto, vai e prendi ali di pollo, un po' di salsiccione, pancetta, e tanto noi iniziamo a preparare il fuoco, cioè il caminetto lì. Cazzo, me ne porta, sorrei queste ali di pollo, e la vedo che di Polo, Liguria, uno di quelle teglie in alluminio gigante, ma sono abbastanza buono per mangiarla, è povera mamma che... Di cui avete sbagliato, preso quelle di... cosa, di cosa si chiama lì? Lui... di Tacchino. Ehi, avanti, cambia. Aspetta, sorry, che c'è Pinocchio al muro. Avanti, Pinocchio al muro, si ascolti Claudio Sparviero, cambia. Noi già stiamo bene, Pinocchio al muro. Noi stiamo bene qua nel cuore di Sassari, mezzo fresco, e tutto procede bene. A tutti ci ascolti, o solo a me a colpi, cambia. No, ti sto sentendo bene, segnale 7, radio 5, Pino. Molto bene stasera ti sto ascoltando, eh. Non so se ti ascolta Salverio, c'è Antonio Grode, c'è Antonello Pomponio, ma qua la torre di controllo, la Bolusò, segnale 7, radio 5. Avanti, io Salverio, ascolti Pino Cetto il Moro, la Bolusò. Vale, avanti. Pino Cetto il Moro. Ascolti la rivaccia lunga, la pau. Sei fuori uso, a questo non lo senti, vero? Andando bassissimo. Qua sei 7, radio 5 più. Allora, Sorri non ti sente per niente, Sorri. Vediamo Antonio Grode, vai per Budujo se ti ascolta, cambia. Attenzione, Pinuccia del Moro. Pinuccia del Moro, Antonio Grode l'hai sentito? Hai sentito parlare ma non hai capito, già è un segno buono. Poi chi è che vuole andare per Budujo? Avanti. Non c'è problema, Pinocchio il Moro ascolta tutti gli operatori radio, cambio. Se lo sta accorto, se ne ho evacuato, già avrebbe tirato fuori. Non per basso solo. Poi sì, guarda, la via Pasquale arriva benissimo a Budujo. Tu sei troppo coperto lì, io... Forse lì, io invece lo vedo con l'antenna, lì in via Pasquale arriva benissimo a Budujo. Ma qua... faccio scendere i topi dalla trave a Pinocchio, lui qua è 7, un picchia 8, radio 5, alla grande. Ho sempre la stessa radio, sto parlando, ma non è che solo a diventare sordo, madonna, questo ecco, ma avete attambainato. Comunque se cambia radio, però lo sento con un sibilo, signor Cetto, lo sento io con un sibilo fino e fine. È come se le scuse la gente fuori frequenza, non di molto, ma di pop. Sì, qua arrivi a spaccatura, se poi metti le cose entrano a vibrare le casse. Esatto, però qua abbiamo 10 watt. Aspetta un attimo che giro la trappa e te incontri metto 30 dall'apparecchio. Stiamo diventando solo, cazzo, mamma mia, e non mi senti con l'apparecchio normale. E allora già va bene, non ci sono problemi. Ma stiamo diventando solo, non si può usare, ecco, per l'ascolto di... No, te capito, ti metti le cuffie e ti metti mezzo sotto. E allora me la puoi trovare, già va bene così. Avanti che tocca, cambio passo, compro e vendo. Ora, lui, dammi la ponte che provo a mettere il vate dell'apparecchio al massimo. Prova, se ti dice che ti sente lui non ci sono problemi. E non certo è sempre lì che aspetta qualcuno che arrivi a buttargli nel topo dalla trave, lui è contento quando tu gliene butti il topo dalla trave. Quando ci avevo l'estate scorsa, quando c'avevo 747 già, sicuramente già ci avevo chiuso, penso a vedere. Tiro un certo il muro, senti l'anima lunga qua, ci dà i sassari, tiro un certo il muro. Non hai sentito a Saverio? Non l'hai sentito a Saverio, no? Non lo senti a Saverio? Sassari. Uè, Nurvi. Che, quanti cavi fai girare tu? Ah, già video, mi pare che Antonio Brode si sia allontanato un minuto, riprendi tu Xavier. Altrimenti mi si sta chiamando in niente. Basta. tutto attaccato, 4 watt. Speriamo che non entri il portantista, se non mi copre che ha tanto un casino. Non ti copre, è passata via. Ma stai scherzando? Io manco la giavia, mi dà un 4 watt a tutti i dì. Hai detto che ancora devi ingrisci prima di tappare, ma devi ingrisci un bel po'. Ma se non parte in sasso e passa lui, convinto a disturbare la gente. Questo qui c'è, ma Antonio Grode dove? Antonio Grode dove? Anto, aiuto. E sono lì 11:10 e mi serve me programmare anch'io perché domani devo stare presto. Noi ce ne abbiamo fa poco, quelli adesso. Ma l'unica cosa brutta che c'è a baracchino, se qualcuno si fa con qualcuno, è andata proprio la parte, non serve a niente. Se c'è qualcuno che va, tu mi sei simpatico, ci vogliamo la tecnica di rimpiazza, quello che è, poi si faceva una volta, e ne vogliamo i conti. Quando c'è la passante e piange gli altri, la verità, cioè, le persone, prendi gli altri non è giusto, la verità, io la penso così. Non c'è qualcosa da dire, io sono fatto così. Ti telefono, ti chiamo, quello che è, dobbiamo spiegare questa cosa, che non ci sta bene. Si parla di persona, e si regolarizza. E vedrai, quante cose dire. Come per chi comincia, poi già si parla la cosa. Tutto di me, non è che è importante, non mi è mai piaciuto a me. Una volta che l'ho fatto tanto tempo fa, l'ho fatto anch'io, la verità, però non capo niente, va bene, mi ha messo con la verità perché mi ripetivo, ma non riuscivo a parlare al vero, da Sassari, da Benizzetto, e anche da qui, con 600 volte, la verità è delle soddisfazioni grandiose. Che avevo scoperto come mangiare le persone con un input, bastava attaccare il lineare e con il vostro gestuale a destra e a sinistra e la persona che c'era sotto non riusciva a murmurare perché il tipo questo fischio. Ma è sempre cose da pigliarsi, capito? Pure quando deve veramente disturbare delle. Deve avere voglia di farlo. Potenza, radio, antenna, posizione, tutto. Allora ci vai a lasciare verso l'altro e parlo un po' più nessuno. Attacchi i rughi, e via. Ma se non sei in grado di farlo, ma non disturbi nessuno, è inutile ti metti a perdere tempo. Comunque a me non me la fottimo, da me non mi disturba nessuno. Sono sempre passato sopra queste portanti. Fino adesso queste che ci sono, queste 4, 5 ogni tanto, una di un segnale, una dell'altra. Non ho problemi a passarle, le crepo tutte, che siano dal monte, che siano da Furi, che siano da Paesi, che siano da Lungagine, Stribonghi. Non lo so io dove sono, non me ne frega niente, ma fino adesso a fastidio me non me ne hanno dato. Le crepo tutte quindi, già me la fotti. Va bene Antonio, dai, io stacco perché me ne vado a nanna, mi sto però mai andando. Preso anche la pastiglia, non sta bene lo sonno. Ci sentiamo domani, ci aggiorniamo domani, senti Antonio Grode, salutalo. Ciao, salve, che stai ascoltando. Antonio Forchetto. E basta. Ci sentiamo domani ragazzi, dai, vado a nanna, se no mi trovo in altre gadrie. Ciao a tutti, buonanotte. Buonanotte. Però io sono d'accordo, è bene che ci siano le portanti perché è giusto che ci siano poi alla fine. Cioè io sono anche solidale secondo me alla portante. La portante ha un motivo d'essere. Lo so, di essere deficiente ha un motivo. Comunque a noi delle portanti, se tu ti sposti nella prima portazione, mi arrivi lo stesso, io ti arrivo, nella seconda mi arrivi, io ti arrivo, io sono circondato da persone forti, non da qualcuno che ha. Capito me? Ciao caro, ci sentiamo domani. Lo credo. Ma io che dobbiamo parlare male di te, vattene. Io non spengo. Non lo so, ma secondo me già lo so che dormi col baracchino acceso. C'ho le cuffie volanti come quelle di Salvio. Capito? Con la presa diretta io dormo con le cuffie. che a parlare male di Claudio Sparviero è retorica, cioè è troppo semplice, e a parlarne bene. Guarda, io sono di qui di qua, spengo la radio, ma fai niente, intanto c'è sempre luce di nuovo e che a me mi riferisce, capito? Io so sempre tutto, anche quando non ci sono, so sempre tutto. Ci sono i miei uccellini che mi sono fatti grandi. Allora mi chiamano subito, zio Fra, guarda che tizio che io sempre sto parlando male di te, ma cosa me ne ho fatti a tu? Sto pensando altre cose. Quella gente lì che parla male, sono solo, te l'ho già detto di persona, lo so, basta così, non aggiungo altro, ciao. Ciao. Però non fare concorrenza a cosa, a Pomponio, che anche lui ce li ha gli uccellini, ogni tanto se li fa grandi pure lui. No, se non sono di buon rioco, tanto se io parlo di palo 55 metri, lui non ci poteva parlare a rispondere, perché se non mi tirano tutto, quindi io ci guadagno. L'unico posto dove si può parlare senza problemi è i 1200 MHz. E cioè sui cellulari, allora lì sei sicuro, vedi? E neanche più, neanche su quelli. No, in 45 metri si può entrare 6,6 megas, perché se non entra lì è fu tutto, quindi questo capallo è abusivo, capallo male, non registra l'altro, e lo dico, come la risposta, perché vuoi risposta, beh, vabbè, ti fai tutte queste cose, hai capito? Sì, bello. Che bisogna nobilitarla, secondo me, questa frequenza, perché è rimasta per troppo tempo in mano a persone che ne fanno l'uso sbagliato, perché anche questa cosa è importante e hanno motivo d'essere fino a un certo punto, anche perché nel momento in cui se ne va, se ne vanno tutte le persone e rimane a mettere portante, e poi è uno spreco di corrente. Tu lo sai quanto consuma il baracchino nel momento in cui stai a premere il portante? Esci che è meglio, fai altro, molli tutto, spegni e te ne vai da un'altra parte. Io non capisco queste cose, anche perché, vabbè, io sono fatto così, già lo sai. Sì, già lo so, preoccupati. Guarda, io, Claudio, quando ci parliamo male ci vediamo sempre al bar, sa perché? Ogni volta che andiamo a parlarci male, siccome noi nervosi sono nervosi, ci prendiamo 5-6 parti e poi la birra. Claudio è che non ha il fisico, se avessi avuto il fisico tu già fotti, però io l'ho visto così, è Michellino Michellino e mi ha fatto tenerezza, quindi ho detto vabbè dai, lasciamo perdere. Sentiamo perché. Adesso non ti rispondo. L'hanno eradicato da Porto Torres troppo presto, se no avrebbe avuto quantomeno il fisico da pugile, non ce l'ha. Non me lo vorrei paragonare a cosa, ma quello che hanno fatto a certo punto dico che era di Porto Torres, che mi stava di fronte a me. La gente mi frequenta, non ce la facciamo a farlo rientrare. Adesso non rientra per soddisfazione, se non avesse rientrato avrebbe messo la fontante, te lo dico io. Non so quello di Porto se guidava di fronte a me. E era così, no? E un giorno mi è capitato, ti giuro, guarda, tanto, è capitato che è andato al circolo. Io mi ho fregato un altro baracchino, andiamo qua, mi dico le antenne. Per macchina, quello che c'è tu, mi dico le cose. Mi ha fregato una. E la notte ero come due nato al circolo, tranquillo, 11:30, quello del genere. Vado, esco fuori, prendo la carta del giornale, glielo metto nel ho fatto questo battuto, la benzina del battuto. Io lo sento, allora se battuto gli ho buttato un buco la moto. E lo sai che è nato al circolo a picchiare due persone, ho fatto male, l'ho detto io, e poi sai che così ha picchiato il centro del tuo, che ho messo a fuoco la moto, ero io. Tu sei matto, mi ha detto. Tu sei veramente matto, non pensavo venire così. C'eravamo la bomba dentro la finestra io. E tu cosa me ne frega a me? E tu che tu mi hai fregato davanti nella finestra? E cosa vuoi dentro a me? E tu adesso mi conosci come sono fatto io. Sei spaventato, sai? Da quel giorno ho cominciato a passare la testa. Come stai Lello? Io lo sai che sono per la faccia. Non fate la guerra, ma fate l'amore e non fate la guerra, così è. soldi così. Se non ti fai aspettare al centro storico sei morto. Io ho fatto così. Purtroppo, per me. Da quel giorno non avevo più le balle più nessuno a me. Passavano una via tranquilli e tiravano dritto. Dobbiamo andarci al centro storico a fare un revival. Sì, io non mi venite. Se non mi venite, se c'è qualcosa da buttare nelle stelle, quello che è, mi dice a me, andiamo assieme, tenete guarda, vicino alla, quando posso andare a scuola, ho fatto 10 minuti, aspetta 10 minuti, un orologio, dato l'oro, sono stato in via. Dobbiamo andare, ti ripeto, a fare visita un attimino alle amiche di della San Sarigricchia. Prima andiamo a messa a confessarci, o dopo, come vuoi, la sera, così, passando un atto, e dopodiché passiamo lì nei vicoli. Non mi confesso io, anche troppo basta, ti ci porto io. Vediamo un po' cosa sai fare. Io no, già, non mi mettere nella condizione, che già lo sai che io sono un bravo ragazzo. Vabbè, già ce l'hai i soldi tu, io sono povero, loro lo fanno gratis, a te a pagamento. Pagamento cosa? Che non ho un coso, mezzo dollaro, mezzo euro per far ballare un gobbo. Dimmi una cosa piuttosto, piuttosto che vuol dire più duro, ma il barracuda non si è sentito stasera? No, non è strano, non ho sentito per niente, è strano. Guardavo pochissimo, Antonello, non so perché, ma non ho sentito, mi sembra tutto quanto il giorno oggi. Sarebbe da fargli una telefonata quasi quasi. Mi penso che l'altro giorno volevo fare qualcosa, ma un pranzo o qualcosa in gabberoni. Come se l'ho impazzito alle 8 e del mattino. E c'è un cane, mi ha pisciato tutto quanto tra l'altro, ho detto, c'è l'altro si è sempre permesso a fare gabberoni, ho detto. A lui mi ha risposto domenica prossima. Il cane non c'è, me lo utilizzo e siamo a posto. Cosa facciamo? Il gambero di metà a pipì. La caccia di scubi, non saranno. A proposito, Simona c'è? E è cominciato il mal di pancia. E si è mangiato un gelato. Ancora a blocco di stomaco da ieri. Già c'è comunque, non preoccuparti. Ma io le volevo parlare. Ma con questi gelati, caldo o freddo, non è venuto lo squacker anche a te un paio di giorni fa? No, non è venuto la pizza, io non avevo mangiato la pizza e poi ho fatto una cosenata di... cioè io non ho bevuto la birra, la verità, però non ghiacciata, calda, ho avuto 4-5 di birra. Dopodiché, dopo un'oretta, quello che è, piccato per i giri, ho mangiato la pizza a bollente, senti quelle pizze sono gelate, ho mangiato a bollente e dopodiché mi sono dovuto a birra, digerire e poi mi sono preso il gelato, ma dopo un paio d'ore e adesso sento questo blocco, mi si è messo un chiodo dentro allo stomaco, capito? Mi ha bloccato lo stomaco, l'ho bloccato. Detto perché la pizza la dovevi aprire, il cartone della pizza non la dovevi lasciare dentro la carta, quella carta, quella plastica che c'è, che la involge, quella va tolta, mi l'ho tolta, non la prima, l'ho fatta diventare molona la pizza, per se vuoi sapere. Poi ci ho messo il condimento, ci ho messo formaggio, ci ho messo tonno, ci ho messo carciofi, ci ho messo le acciughe, le sottilezze, e poi l'ho mangiata. Credo che ti è venuto mal di stomaco, ti sei bevuto, ti sei intruscato 5 birre, ti sei mangiato una pizza che era uno schiaffone nello stomaco, un pugno nello stomaco, e dopodiché ti lamentiti, il chiodo ci avevi, tuia il chiodo. Infatti, dopo già sono gelato, non mangio più, se non mangio questa è meglio, questa volta mangio pizza, però fanno 5 ore non sbatte nulla, e me la mangio a casa come se l'avessi già pronta, senza farmela io. Poi se vai a vedere quanto spendi, innanzitutto surgelata, quanto costerà 2 euro, 3 euro, quanto spendi di forno per riscaldarla, quanto ci metti in condimento, questa è tutta la rottura di scatole, alla fine ti conviene davvero prenderla direttamente, puoi ordinartela, te la portano a casa, è buona. Me la dico portare un euro, l'ho detta, non me la dico, ne prendi due. Ho capito, però la quella pasta lì, a parte che gli sbalzi termici, soprattutto in surgelazione, se la surgelata la rimetti poi in frigo, comunque c'ha degli sbalzi, produce delle tossine che non sono propriamente salubri alla salute. E quindi bisognerebbe evitare di prendere queste cose surgelate. Soprattutto dico, queste cose vanno bene per chi non ha pizzerie vicino a casa, ma grazie a Dio la sera è piena. Quello sì, sono d'accordo anche con te. C'è una, come si può dire, il via Crotrice proprio dove c'è Sena Maria, quindi sono 500 metri in linea d'aria. Mi sembra che una pizza costa 4 euro, costa 5 euro, adesso non mi ricordo l'orretta, sono pari che non le prendo di quelle. Quindi mi conviene più, la faccio portare a casa e me la mangio come si deve. Te la ricordi la pizzeria che c'era vicino a casa tua, su, quando eri alla fine via Montegrappa, l'Ariete? Mamma mia, già me lo ricordo già. Io la famiglia con cosa, quando facevo la guardia interna. Ma però adesso hanno aperto i nipoti di quello, il figlio. Ce l'ha giù da un bel po' di tempo, giù in via Montegrappa, angolo via dei Mille. Sì, quella pizzeria la conosco. Quando ero in cosa, quando facevo la moto, andavo spesso lì e facevo la pizza buona, come quella che fanno già a Tempio, uguale. Se poi conosciuto come già a Tempio, negli uomini, diciamo negli uomini, ricordiamo si chiama, comunque, che mi hai capito, c'è quella che già a Tempio, lui fanno la pizza buona lo stesso. Anche la famiglia di due. Arrivi a Tempio? Adesso mi sfugge il nome, comunque l'aveva aperta mia nonna e quella aveva venduta all'attuale proprietaria che c'è adesso, capito? Ma ti parlo degli anni fine anni 70. E così di voi che comunque fa la pizza buona, le fa veramente buona le pizze, anche la famiglia fa buona la verità. Non sarà la famiglia come quella del per dire perché c'è tutto unico, come le pizze, di pizza che ci sono vicino all'università, però. La roba è buona. Vittoria si chiama quella, la pizzeria di via Tempio, gliel'aveva venduta mia nonna negli anni 70. Sì, no, ma quasi tutti dai fanno buone pizze. Se vai anche da Gissanna, quello che c'è in via dei Mille, è buona lo stesso. Diciamo che sono abbastanza semplici da fare se usi prodotti buoni, dai. La vita l'ho comprato io, quando ero in via Lucento. E anche quando abitavo i primi giorni a casa di mamma in via, io passo la verità, scendevo lì in moto, facevo lo scooter, il battuto, scendevo giù in battuto, scendevo, abbiamo una cosa, la pizza lì direttamente, poi la facevo su, e era veramente buona. Anche la crepe pigliava addirittura. Invece poi c'è tutto lì, naturalmente andavo, c'era la pizzeria vicino, poi c'era la pizzeria giù. Che poi era anche un cibo con la pizzeria, che adesso non ce l'ha più, la congestionava un'altra persona. E quindi, però, l'unica pizza e l'unica cosa che fanno buona c'è un po' di con le mie università. E adesso la cosa non me lo ricordo, non fanno le pizzette, le fanno veramente buone, solo quelle sono buone, fatte bene. Ma vabbè, io ce n'è qualcun'altra, ad esempio non so se ti ricordi, adesso mi hai ricordato parlando di pizzerie, una cena che fra CB che avevamo fatto alla fine degli anni 80 ed c'era anche l'amore tuo Falcone ed era stata fatta al Saraceno. Esatto, sì, Saraceno l'abbiamo fatto, più di una volta abbiamo fatto Saraceno, anche in via Napoli. Era una dieta addirittura, avevamo fatto le pizze, non avevamo mai fatto le pizze, non mi ricordo. In quei tempi quelli, vabbè non ricavavamo lui o qualcosa, però pagava lui. E lì ci siamo divertiti perché c'erano parecchi CB, la verità. Se ora ci fosse stato qualcosa adesso, ti giuro, anche c'era stato un piccolino con più bottone, se ci fosse stato adesso sarebbe entrato un bel di gente, con i colori di nuovo. Più che altro per divertirsi, non per altro. Ti ripeto, guarda che tu Saraceno in via Napoli, in via Napoli, angolo dove c'è di fronte all'edicola. Io mi ricordo che c'era Flauto Magico e altre due o tre persone, non mi ricordo, c'eri anche tu. E ci devono essere anche delle foto, perché mi ricordo che erano state scattate delle foto la sera, quella sera lì. Ma ci vuole poco, mia. Io ti ripeto, se a farlo entrare parte delle cose gliela do io, della strumentazione. C'ha tutto lui, c'ha il macchino, c'ha le... c'ha l'antenna, c'ha la mano che si perde, il capo, c'ha due limitatori, c'ha un ultimo vetro, un Midland e un altro macchino c'ha va, mi ricordo io, c'ha un altro macchino, non c'ha bisogno di niente, e sono sicuro che c'è questa cosa bella, ma cazzo. È inutile di rientrare, che le cose sono cambiate e fatte, tutto lì. E perché non provi a sentirlo? Perché è stato visto, non è stato un palazzo postorico, mi vedo tutti i giorni io lì, quando mi consiglio quello biondino. Poi sono stato 3 anni che ho fatto non ti ho visto. Ascolta, e se lo ricontattiamo tu lo convinci a rientrare? Ma non ci sono problemi per farlo rientrare, per me non mi vanno male più fastidio la verità, anche perché le cose sono cambiate adesso, non ci sono più quelli di prima, quindi se entra, anche lui è cambiato naturalmente, perché l'ultima volta che ho sentito la macchina sembrava come se fosse una volta, era impacciato, capito? Non c'era più quello di prima che si tratteneva, non metto di portate, no, me la va subito. Infatti, ti ripeto, poi basta non metterlo nella condizione di nuocere, ma ti ripeto, oggi come oggi secondo me sarebbe più tranquillo, poi il QTH non è più centrale come prima, basta fargli una cosa ridotta e va bene anche lui. Come, non ho capito. E ci mangiarmi, non ci sono problemi, non fare compagnia, parlare con lui. Guarda Roggio, adesso mi sa che inizia una carichina fatta di patatine fresse. Buona. Patatine fritte, ho mangiato stamattina a pranzo. Poi posso mi sono mangiato un piatto di pasta asciuttata, un piatto e mezzo per la verità si ricca. E un attimo di limone. Attina di limone, dieta di limone, ce l'ha presente? Paga, sì che sono presente. Ma dimmi una cosa, lui dove sta abitando adesso, con la sorella? Ma quanto sono a Sosso, ma che non ha cambiato zona, anche perché per lui dovrebbe avere, ne ho 47 anni, e lui dovrebbe avere intorno ai 70 anni, dovrebbe avere, cioè 75-70 anni, una cosa del genere. Che non è grande, eh? Oh, la sorella già era una vecchia cadrona, eppure antipatica e fea, a prescindere da quello, ma la sorella in effetti è strano che non moduli nessuno. A Sorso c'era uno, mi sembra che c'era Giuseppe Lofattore, poi c'era il cognato della Signori e altri due cibi, uno è molto carrozzella, poi non ho più sentito nessuno, la verità. Tutti da Sosso. Caparò, adesso me lo prendo come impegno, ti ripeto, ma la cosa deve essere vista non come una cosa poco seria, ma io credo che questo qua, nel bene e nel male, abbia fatto comunque la storia della Cibicia Sarese. E se le cose sono cambiate, e anche lui è cambiato, è bene che rientri. Non so che io, mi ha dato una buona idea, me la fa accompagnare Claudio, quando non ci siamo noi. C'è lui che ti fa compagnia ogni tanto. C'ha anche i becchi. Sei penoso. No, vedrai che non lo fa più così. Assolutamente. Ti ripeto. Ci si può provare, dai. Ma io non mi fa entrare. Su 10, guarda, verità. Fare compagnia. Perché fa compagnia, la verità. E allora, questo c'aveva un culo lui. Parlava con tutti, lo sentivi a Caronte, lo sentivi a Polate, lo sentivi a Carlino, arrivava in tutti i posti per posto che era la dosa. Arrivava in tutti i posti con la B27L, che è stata da me al primo colpo con un stazionario, con la mente nel palo, arrivava in tutti i posti. Infatti non capisco perché gli avevi fatto così bene questo impianto, lo potevi fare un altro. Cosa risolve? Mi scito di culo. Niente, mi schiacciava perché uscivo con la mini Grand Prix e ce l'avevo anche a casa. Infatti, io non dico. Tu l'avevo da via Montegrappa? Infatti, io me ne ho messo. E i tempi quelli, la verità, ma invece c'era anche più gente. Adesso non c'è più niente in casa, la verità. Se metti un CB, mi metti come pazzozza adesso. Ma che già rientrano, adesso oggi devo passare alla commercialista per ritirare il coso, il codice fiscale dell'associazione l'ha già fatto, questa manca solamente l'attestato di registrazione del fatto, cioè ma col codice fiscale poi è la stessa cosa, se no deve proprio ritirare materialmente i documenti e apriamo la campagna a tesseramento. Poi c'ho il tesserino, quello vecchio, lo sai, non è trovato. Io mi chiamo Alessio Sera 19, come nominativo, nella FCB, SEP, la sorpresa, nel 91. Scappa, lo scherzo mi è costato la bellezza di 160 euro, più 4 marche da bollo da 14. Visto, più del tutto quella volta. Mi sembra qualche cosa, tu no, ne mangio io, mi hai detto. Ora non me ne sono pentito. Figurati, lo rifarei, non c'è problema. Assolutamente, anche perché ti ripeto, se proprio li devo reintegrare, li reintegro come potrebbe essere giusto dal pagamento dei cosi, dei tesseramenti, ma non li voglio, li metto a fondo. Mi spiego che vada bene, poi tesseramenti o no. Io spero che vada tutto molto bene, che ci sia un bel mezzo di persone che siano interessate. Poi con quello che c'è adesso, con il casino che c'è adesso, io me lo vado e guardo molto bene, perché siamo come partiti politici, la verità, siamo un pezzo a poco. Aldo, hai capito? Io ne ho solamente che le persone quando volta si rendono conto che non c'è quella idea politica, capito, di destra o di sinistra, oppure di centro, tutto lì, solo quello, è come la penso io, tu mi hai capito quello che devo dire, quindi... Io ho capito, il bello della vita, o meglio le associazioni, sono in piccolo delle società. Come tutte, anche nelle piccole grandi famiglie ci sono l'eterogeneità dei caratteri, cioè le persone sono diverse ed è giusto che siano così, è giusto che bisticino, è giusto che facciano pace, che non la facciano, l'importante è che comunque contribuiscano positivamente alla vita della famiglia, quindi dell'associazione, quindi della frequenza. Infatti, è quello che mi auguro anch'io, la verità. Comunque, speriamo bene, che non sia una cosa andata male, la verità. Io mi sto impegnando per cercare un po' di... Adesso con soldi, fratello di Giuseppe, che mi piace Barca, quindi ci abbiamo uno in più. Sto cercando adesso di quelli che mi ricordo che mi muovo di sto costringendo a rientrare. Così ci abbiamo preso in più, gli sto dicendo quella cosa seria, come si deve, eccetera, eccetera, e basta. Chissà che riusciamo a fare qualche cosa, speriamo bene, guarda. Mi hanno detto in bocca al lupo, e credo che il lupo diceva quello. Speriamo che la gente risponda positivamente sulle cose. Ma guarda, io la cosa l'ho già fatta. Io avevo intenzione di fare una cosa, la sto portando avanti, poi se va bene, se va male, male non esiste che vada, perché sta già andando bene, assolutamente. niente, ci vuole sia qualcosa, un po' di pelo ci vuole. Ragazze, spregiudicati voi, non quella, non sai come si riempie il baracchino. E non è reato. Ci mettiamo quello che c'è tu nella schiena. La pantuccia. E no, il pelo. Il pelo che c'è tu nella schiena, non ti va bene? Non so che tanti anni fa abbiamo citato anche molte addirittura con le ragazze che andavano al baracchino, sono citati pochi anni di cose di gente che muoveva in alta frequenza e che ti chiami, stiamo andando a casa là, ti voglio conoscere. Allora non sembra che addirittura tra uguale, mamma mia, sembravano tutti, avevano tutti una piccola donna, poi pulizia pobre. Capita anche quello. A parte che se ci dovesse essere pelo e ti sgama Simona ti gonfia di botte. Non è assolutamente abituato ormai. Con me, sei tranquillo. E con me già si fida Simona, come mi fido anche di lì. D'altronde ci mancherebbe un guarda che lo fai. La conosco più di 10 anni, non è che la conosco un giorno. Quindi sa come sono fatto e sa come io arrivo a un certo punto con i bu, mi blocco lì, capito? Poi se magari non mi ricorda che questa qui così così, quella lì così così, la blocco subito, non è che se si mette magari qualcosa in testa, no, non va bene, capito? Non sono di quelli io. Bene, ma un figlio quando te lo fai? Non posso. La parola se lo faccio, un figlio. E questo lo voglio anch'io. E lo voglio anche lì. Adesso siamo ogni settimana, stiamo facendo il ciucu ciu, quindi non te lo capiti. Sai come si fanno, sì? Sì, si usa la mortadella, il salame, il prosciutto e la pecca di biliardo. Ma lo chiami? Prosciutto. Fletto. Lo chiamo prosciutto cotto da un biscotto. Ma bagnati, no, ne sono nati tanti, ci va quello. Ma comunque l'organizziamo questa cena, sì o no? Casa tua, non intendo. L'organizziamo, questo parlo di un pranzo e non una cena. Non è stato proprio l'altro giorno, mi ha telefonato il dottor Mezzo, non lo so io. C'è un cane qua, c'è uno scompito. E tu come faccio a organizzare un pranzo e tanto messo c'è il cane qua, devo pulire, lavare, la piscia con la pipetta che va pisciata. Non posso invitare qualcuno che mi capisce del cane. Allora, qua, organizziamo domenica prossima, dopo ci sono problemi. Ho detto, facciamo un pranzo, colloquiamo le linee, i tamberoni, cose del genere. Facciamo un limite bistecche, quello che è. Ci mettiamo la stessa, facciamo la spesa il sabato. E la domenica facciamo il pranzo, quando non costa niente, no? A meno che non sia la domenica che sia per dire che tutto è ozio e si fa la spesa la mattina, ma si può fare anche sabato sera per dire, il sabato alle 2, si mette il fratello frigo, quello che è, e poi si cucina la domenica mattina. Si può da bere, da mangiare e ci divertiamo, questa niente. Invitare anche le brasiliane? Quello non lo so, perché non l'ho ancora sentito, la verità. Sono ancora a sentirle, non penso che siano a Sassari, dato che c'è stato un mese, glielo già visto. E quindi la cosa è sempre stata come più sicura, per chi c'era, perché fa quel mestiere. Anche perché la ragazza non è che abbiamo la residenza, capito, qua a Sassari, quindi le potrebbero beccare e fare una cosa inutile. Uno che fa massaggi, non la conosce? No, la verità no, perché massaggi vuoi? Più muratore c'è, se vuoi massaggi con blocchetta, con coso, con la paletta, con la tavella, come vuoi? Se ne hanno fatti. A me no, ma i massaggi ne hanno fatto la verità. Ma io sono lasciato il pelo, ma i massaggi. E lui? Che li sono fatti? Boh, tu stai mangiando, non cosa ne so quello che vai. Stavo cercando una massaggiatrice per la cervicale. Una massaggiatrice per la cervicale. Aspetta, prendiamo la stagione. Di un mezzo fa. Ti dico l'indirizzo. C'è Morgana, c'è Valeria, c'è Carlucio, ben culo, la verità. Giulia, c'è sempre che lui, Lina, Viviana, tutta la chi vuoi tu. Morgana. Ce ne sono tante. Ma sappiamo l'occasione, l'ultima pagina, guarda, c'è la fotografia. Morgana. Sì, cari, di un mese fa non ci sarà più senz'altro. Dopo quello che è successo la scorsa settimana sono già sparita la circolazione, quello. Io, dimmi che ore sono. Non lo so, sono mezzanotte. Vabbè, che l'hai sistemata bene l'antenna a Giuseppe. Sì, io mi sono fatta una base con la sua. Non ho fatto una marco, si muove l'antenna. Perfetta, Io l'ho piazzata. Con la baracchina ho fatto la prova e pompa che cosa male con l'antenna. Adesso non so cosa fare la sua. Cercare di fare qualche cosa. Non ho problemi a dargli la mia, questa gran briga, cioè, è che se l'ha ancora bene, non è che se la ritrova in strada il giorno dopo. Ci vuole un po' tempo, ci vuole, io non ce la so di spendere tutto tempo così. Se avessi avuto soluzione, ovviamente l'ha fatto una gara, ma non posso farlo purtroppo. Ho solo il centro di cose di l'altro giorno, di spesa, non c'era proprio niente, e quindi sono rimasto con poca roba per prendere la luce, sigarette che non sono mie, già l'hai visto, e quindi finché non pago il resto che devo pagarmi, rimango così. Se al limite avessi fatto il scuolo, avrei comprato qualche cosa della banca, varie gaffe, quello che è, anche la fatta a metà fianco, posso piazzare, ma purtroppo non posso fare l'acqua io. E beh, mi raccolo quello che ho fatto per la macchina, non posso dirti. Questo è qualcun altro. Invece sto riuscendo a uscire abbastanza bene con quell'antennino. Piccolo piccolo ma molto simpatica e agile. Sì, ce la sono da presa per questo. C'è un tiro lungo 1,20 m, radiali 1,10 m, qualcosa del genere, c'è perfetta l'antenna. Con la conservata di rigora posso ricordare che c'ho adesso. Nel caso ci sia qualche problema mi metto quella. Te l'ho detto che una te la do. Adesso la prossima volta che ci vediamo la preparo e te la regalo. Vabbè, infatti mi dico di darmi il coso mio, quello che mi interessa è l'antenna, il retrofuturo del schermo, non mi interessa 80. Anzi, ti voglio dire una cosa, uno di questi giorni voglio che tu provi il mio a casa tua. Ti voglio vedere come la verità. Con quel microfono che c'è tu. E vediamo le carità che c'è. E come c'è qualcosa, se c'è qualcosa di cambio oppure no. Tanto sono uguali gli attacchi, cosa cambia? Non cambia niente la verità. Ma ti faccio la fotocopia della cosa del film, del libretto. Non te lo voglio regalare io, nel senso che ti regalo le fotocopie, ma siccome ne ho due adesso che devi distruzione. No, non mi interessa la fotocopia, non mi interessa il libro intero, no, non hai capito. Non mi interessa la fotocopia e basta, di quello. Quindi non mi interessa altro. E poi se vuoi fare la prova, la senza l'uno all'altro, non costa niente. Cioè, il mio lo porti da te e lo trovi, non costa niente. Se mi trovi quel microfono che c'hai, che si vede la differenza, perché il mio è aperto, il tuo è chiuso, capito? E non è tanto che c'è l'uno e l'altro. Stavamo parlando con Claudio, molto brevemente comunque il mio è aperto lo stesso. non è così chiuso, il microfono infatti si è vinto che era aperto. E vabbè, comunque, provano, non costa niente provare. E quindi la differenza che c'è da un coso, una tarica all'altra. Se c'è differenza di questo di regolazione, d'aprile, quello che è. Perché io facendo perfetto adesso, oggi, ieri, la tardi io gli ho messo questo cavo che è collegato alla mattata della malattia e non fischia, adesso sta fischiando parecchio. E non va a semplificazione, come una volta. Hai visto, anch'io ho risolto il problema del microfono, gli ho messo quella cosa che mi hai detto tu, ammassa e va benissimo, tra l'altro è autoalimentato. Esatto, esatto, sì. Numero 5, 8 volt. Il numero 5, sì, o numero 4, numero 5. Il 4, Il 4, è già una bella invenzione, come abbinamento già va bene. E ultima secondo me. Dopo un po', mi sa che ti lascio. E vabbè, ci sentiamo domani al limite. Buonanotte, buon tutto. E ci sentiamo domani mattina. O domani sera, come questo. Ciao, oggi. Lo faccio domani stesso, te lo porto in una copisteria dove faccio le fotocopie per l'università e dovrebbero essere poche quelle, perché il manuale c'è tutto, ci sono tre lingue, ti faccio solamente la parte dell'italiano e poi ti metto anche lo schema elettrico e lo schema blu. Quello che mi interessa è che altro, non mi interessa altro, va bene, ok. Fanno così già va bene. Poi per sabato per domenica ci. Anzi sabato ci vediamo. Sabato mattina organizziamo. Così per limite facciamo la spesa per domenica. Facciamo tardo domenica ma a pranzo, domenica mattina. Poi ci abbiamo tutto il tempo, al limite se vuoi fare se non fare qualcosa elettrico, scendo in campagna, due minuti, in campagna mia. Prendiamo un po' di legna che c'è già pronta, tagliata, la portiamo su, c'è il caminetto, lo facciamo un caminetto, come vuoi tu, non c'è tornata quella, la moglie se no, e come funziona come ti pare, ti piace. Però Giordano, ti sei detto buon ascoltato, ben ascoltato, non buon ascoltato, ben ascoltato, buon 144 quando lo farai e buon QRT. Saluto a te e cordializzo tutti gli ascoltoni. Antonio Grotte chiude le comunicazioni. Ciao, ci sentiamo alla prossima. Stato bene, buon tutto.